9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino, si può fare, vi avevo detto, e oggi capiremo come e qualmente lo strumento che già giorni fa abbiamo visto essere prediletto dallo Stato esattore per dividerci, per metterci gli uni contro gli altri, cioè il sostituto d'imposta, cioè il fatto che per tutti i lavoratori dipendenti lo Stato prende alla fonte, per così dire, tutto ciò che pretende dal contribuente in termini di contributi, in termini di imposta, ecco, si può abolire il sostituto d'imposta, e cioè la funzione svolta al posto dello Stato di esattore da parte dell'imprenditore, dell'impresa di cui siamo dipendenti. Apparentemente è una specie di pilastro dell'ordinamento ineliminabile e che costituisce la ragione di fondo poi di tutte le polemiche per cui i lavoratori dipendenti dicono fate bene voi lavoratori autonomi a dire che pagate troppe tasse, ma intanto ne pagate sempre troppo poche rispetto a noi, basta vedere la media delle vostre dichiarazioni, media di dichiarazioni che poi viene artatamente manipolata quando viene data in pasto all'informazione e consente quindi di presentare queste medie di professionisti, artigiani, commercianti come se guadagnassero poche migliaia di euro, dimenticando di dire che poi c'è lo splitting tra membri familiari dell'impresa, dimenticando di dire che quella è la media tra tutte le imprese comprese, quelle che sono a fine vita o a inizio ciclo e così via, ma diciamo questi sono solo degli arzigogoli attraverso cui passa la campagna dello Stato esattore, che però in base all'inamovibilità e all'ineliminabilità del sostituto d'imposta fa dire a tutti i dipendenti la colpa di tutto ciò che lo Stato lamenta di non avere sta nei lavoratori autonomi, i quali loro sì, privilegiati, possono regolare il proprio rapporto fiscale indipendentemente da una cifra che viene raccolta all'origine, e quindi sono loro che non pagano le tasse. Ora, sorpresa, questa specie di pietra miliare inamovibile si può rimuovere, cioè è possibile a patto di volerlo fare, a patto di voler mettere in campo ovviamente enormi rotture di scatole, come sempre avviene quando si è coraggiosi e intraprendenti, si può dire allo Stato: caro Stato, io imprenditore il sostituto d'imposta non te lo faccio e quindi io pago ai miei dipendenti il lordo, tutto ciò che va loro pagato, e ci penseranno loro come lavoratori autonomi e indipendenti a regolare il loro rapporto fiscale con lo Stato. La mia tesi, ve l'avevo detto la scorsa settimana, è che se molti imprenditori seguissero questo esempio e se i sindacati chiedessero questa stessa cosa, in maniera tale da far avere molto più reddito disponibile, lordo, certo, ai loro dipendenti, i loro dipendenti si renderebbero conto meglio di quello che lo Stato ci chiede, e credo che la pressione per far abbassare le tasse diventerebbe improvvisamente di massa. Fine del mio predicozzo, che però come sempre dichiara il punto di vista iniziale. Sì, si può fare, sì, io sono fortemente a favore che si faccia, ma naturalmente verifichiamo cosa vuol dire intraprendere questa strada, che cosa si rischia, se è legittima, se è legale e quali sono poi le conseguenze anche, e se è veramente impensabile il sogno di forze dell'impresa e rappresentanti dei loro lavoratori dipendenti uniti in questa battaglia. Allora, chi sono i nostri ospiti? Sono il protagonista, direi, fondamentale di ciò di cui si sta parlando. Ne ha parlato ieri nel fondo di apertura del Corriere della Sera il benemerito liberale e libertario Piero Ostellino. Stiamo parlando di Giorgio Fidenato. Buongiorno Fidenato. Buongiorno Giannino e buongiorno agli ascoltatori. Che è il presidente dell'Associazione Agricoltori Federati della provincia di Pordenone e che appunto ha deciso di rifiutare di fare il sostituto d'imposta allo Stato, lo ha regolarmente comunicato, e i suoi lavoratori dipendenti sono a propria volta non solo contenti, ma stanno vedendosela con la partita delicata di regolare i propri rapporti con lo Stato, il quale naturalmente dice: no, come? Da quale pianeta siete scesi? Ma vedremo con Fidenato. Naturalmente non parliamo solo con Fidenato, abbiamo con noi anche Susanna Camusso, segretario confederale della CGIL. Buongiorno Camusso. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. E buongiorno anche al professor Tommaso Di Tanno, che insegna diritto tributario a Siena. Buongiorno professor Di Tanno. Buongiorno a tutti voi. Con la Camusso naturalmente l'aspetto, ma è anche nell'interesse dei lavoratori dipendenti del sindacato oppure no, il professor Di Tanno, diciamo così, ci riserviamo che ci stanghi agli esami naturalmente di diritto tributario dandoci dei provocatori. No, sto scherzando, però insomma è per presentare, non per assegnarvi ruoli predefiniti, ma la speranza di animare un pochino il dibattito. a tutti gli ascoltatori, il numero è 800 24 00 24, per dirci come la pensate. Fidenato, come le è venuta in mente questa mattanata? Diciamo che dal punto di vista politico io sono uno dei cofondatori del Movimento Libertario e nelle sue, diciamo, corde vocali di questo movimento c'è questa battaglia. Inoltre sono riuscito a convincere il direttivo della mia associazione della giustezza della battaglia contro il credito d'imposta per gli interessi dei nostri associati agricoltori, quelli che cioè hanno dei dipendenti a loro carico. È un sistema per ridurre il costo delle aziende, perché diciamo pagare un consulente del lavoro costa, ed inoltre ci fa fare un ruolo che non è quello di produrre beni e servizi, ma ci fa fare un ruolo che non è il nostro, cioè il ruolo del gabelliere. Per cui l'associazione ha aderito a questa mia tesi, alla tesi del Movimento Libertario, e siamo andati avanti su questa strada. Oh, e quando si è trattato poi di andare avanti concretamente, l'amministrazione finanziaria dello Stato come ha reagito? Ha reagito facendo, sì, dicendo che non è il metodo corretto di pagare, perché dei dipendenti miei, tre dipendenti miei hanno voluto esaudire le obbligazioni che avevano verso lo Stato, hanno mandato un libretto al portatore contenente la somma dei contributi fino ad allora incassati, delle tasse e dei contributi. Ma il direttore dell'Agenzia Entrate di Pordenone ha pensato bene di chiamare questi dipendenti davanti ai carabinieri per restituire il libretto al portatore, dicendo che non è una forma corretta di pagamento, insomma. Ecco, mentre l'INPS, dopo il primo avviso bonario, ha ritenuto di emettere una cartella esattoriale nei nostri confronti, cartella esattoriale che noi abbiamo impugnato davanti al Tribunale del Lavoro qui di Pordenone, e il 19 novembre è fissata la prima udienza dove noi abbiamo sollevato la questione di costituzionalità dal nostro punto di vista, perché secondo noi la legge è incostituzionale, la legge che obbliga il datore di lavoro a fare il statuto d'imposta è incostituzionale. Abbiamo evidenziato gli aspetti che noi riteniamo lesivi dei diritti costituzionali, e adesso la prima udienza sarà il 19 novembre a Pordenone. Senta, ma nel mondo dell'impresa, al di là del movimento di cui lei fa parte, nella provincia, nella regione, cosa ha riscontrato? Qualche grattata di testa o qualche consenso? Io ho avuto molti assestati di stima, anzi molti incitamenti ad andare avanti. Ieri poi diciamo che è stato il clou, perché ha avuto inviti ad andare avanti tutta Italia, e un grosso imprenditore di cui ora non posso dire il nome perché ritengo prima di parlare con lui, mi ha chiesto come ho fatto, perché anche lui nel sud Italia vuole fare un'iniziativa di questo genere. Quindi l'iniziativa incontra il favore degli imprenditori, perché è proprio un'attività che non compete a noi, quella di fare il gabelliere. Noi siamo delle aziende, delle imprese che offrono servizi e prodotti, questo è il nostro lavoro, il resto lo lasciamo fare ad altri. Camusso, al tavolo anche di illustrazione di questa mini baby finanziaria di tre articoli con poche risorse, semplicemente con l'attuazione di quanto si era detto del programma triennale di finanza pubblica, però si è esteso la richiesta, il consenso, non solo delle forze sindacali, ma innanzitutto delle forze sindacali, anche di concentrare il più delle risorse, oltre alla protrazione degli ammortizzatori sociali, ovviamente per chi ha problemi di lavoro per via della crisi, anche di vedere di abbassare la pressione fiscale sul lavoro per i dipendenti. Domanda, ma forme come questa, cioè un'interpretazione più rigorosa, più formale di quanto prescrive la Costituzione, l'articolo 23-53 sul prelievo fiscale, e che restituisca quindi allo Stato ciò che deve fare lo Stato, anche per i lavoratori dipendenti come per i lavoratori autonomi, abolendo il sostituto d'imposta che consente una facile raccolta e che oltretutto non consente molto spesso ai lavoratori di capire fino in fondo quanto lo Stato gli leva dalla busta, non dovrebbe essere anche a suo giudizio un interesse dei sindacati per consentire che tutti i propri iscritti insieme esercitino maggiori pressioni perché le richieste dello Stato nei loro confronti diventino un po' meno esose? Ma diciamo che i lavoratori sono perfettamente coscienti di quello che pagano in termini di tasse e di contributi, perché sanno leggere le loro buste paga, e la nostra richiesta di abbassare la pressione fiscale deriva esattamente da questo. Poi è la strada migliore. Io sono molto preoccupata, perché capisco che ci possa essere un principio che tutti i cittadini paghino le tasse nello stesso modo. Capisco anche che il tema dell'evasione è un tema molto delicato nel nostro paese. Non sono però certa che il modo migliore sia quello di abolire i punti di certezza che oggi ci sono nel sistema fiscale per vedere cosa succede. Da questo punto di vista poi credo che bisogna anche distinguere tra le tasse e i contributi, perché i contributi sono strettamente legati alla prestazione di lavoro e quindi credo che debbano essere regolati nel rapporto tra il lavoratore e l'impresa. Il fisco è un'altra questione. Trovo però in queste modalità una distanza che si vuole sempre mettere tra la funzione dello Stato e le altre funzioni sociali, essere imprenditore, lavoratore, eccetera, che alla fine danno l'idea che lo Stato è un nemico di tutti, mentre io penso che lo Stato sia da un lato l'unità di questo paese e dall'altro il fornitore dei servizi e delle risposte a tutti i cittadini. Camusso, non c'è dubbio, però io la distinzione la difendo parecchio, perché lei capisce che quando uno Stato, io dico prende, insomma, si è auto-organizzato per fare più del 50% del reddito intermediato attraverso di lui, e non è solo colui che offre i servizi, è anche il soggetto che prende parte crescente di quello che ci chiede per fini diversi da un'offerta di servizi efficienti, trasparenti, volti davvero a coprire le esigenze di chi si trova in situazioni per minor reddito disponibile, per difficoltà temporanee nel proprio rapporto di lavoro, più in difficoltà, perché questo decenni di studi ci dimostrano che è così, al di là di come uno la pensi politicamente, di quale sia la sua cultura di formazione, però l'inefficienza è una delle caratteristiche di fondo. Quanto più cresce la presenza dello Stato nell'economia, la domanda è come possiamo rifocalizzarlo meglio, forse anche dicendo allo Stato: beh, esercita tu meglio direttamente le funzioni che ti sono proprie piuttosto che chiedere il sostituto. Professor Di Tanno, dal punto di vista ordinamentale, che cosa si rischia con un'interpretazione così libertaria e eterodossa della propria funzione rispetto alla richiesta dello Stato di essere sostituti d'imposta? Il fatto che la sostituzione d'imposta sia disposta per legge significa che chi rifiuta di adempiere al compito di sostituto d'imposta fa qualcosa di illegale. Il fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia rifiutato il versamento effettuato direttamente dai lavoratori dipendenti dice tutto, e purtroppo l'Agenzia delle Entrate non può accettare quel versamento, quindi non poteva far altro che rifiutarlo. Ecco, quindi, però se noi valutiamo questo comportamento in termini puramente legittimistici, cioè dal punto di vista legale, questo comportamento non ha nessuna possibilità di essere salvato. Questo comportamento è una scelta. Le faccio notare solo questo: se uno pensa che ci siano articoli della Costituzione violata, non può che passare per un giudizio incidentale e che possa essere quindi sollevato da un tribunale, da un magistrato e così via, non avendo adito direttamente alla Corte. Ricordo a chi ci ascolta che in Germania, dopo 15-16 anni di tentativi di questo tipo, si arrivò a un giudizio della Corte Costituzionale Federale, equivalente alla nostra Corte Costituzionale, che ripristinava a livello federale, come di Länder, come di municipalità, il rispetto di una parte del Grundgesetz, l'equivalente della Costituzione tedesca, sul limite intangibile di reddito indisponibile, sul quale quindi non poteva essere avanzata nessuna pretesa da parte di nessun ordinamento pubblico, né federale, né cantonale, né municipale. Questo è stato fatto solo avendo la costanza, la testa dura, per tanti anni di sollevare il problema di fronte all'equivalente della Corte Costituzionale. Quindi, professor Di Tanno, per fare qualche cosa di analogo, per chiedere un rispetto diverso dell'articolo 23-53 della Costituzione, forse bisogna passare anche per questa strada. Lei che dice? La verità è che negli articoli nell'articolo 23 e nell'articolo 53 vengono toccati dalle norme in materia di sostituzione d'imposta. Le norme in materia di sostituzione d'imposta sono norme puramente strumentali, quindi se c'è un articolo della Costituzione che potrebbe vagamente essere sollevato è l'articolo 3, cioè l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma qui la verità è che i cittadini non vengono messi in posizione diseguale, tanto i lavoratori dipendenti che i datori di lavoro, che per capirci i professionisti, pagano le stesse tasse. La modalità con cui vengono prelevate queste tasse non è un elemento di discrimine. Quindi la posizione assunta dal signor Fidenato è una posizione più o meno condivisibile, ma dichiaratamente politica, non è una posizione che possa essere sostenuta sulla base di principi costituzionali. Io la penso diversamente, ma non credo di essere solo, però naturalmente apposta, essendo lei in cattedra. Ma la pensa diversamente sul piano costituzionale? No, sul piano costituzionale penso per esempio che l'articolo 23 in materia di riserva di legge stretta e di fonti che disciplinano la richiesta di prestazioni personali o patrimoniali nel nostro ordinamento, io sono tra coloro, lo dico, voglio dire, studi alla mano, eccetera, che pensano che l'orientamento della giurisprudenza della Corte fino a questo momento, accumulata in materia univocamente favorevole alla pretesa dell'ordinamento di estendere sempre di più l'attuazione concreta di questo articolo 23, che nasce invece a tutela del diritto naturale del contribuente nelle costituzioni liberali da cui è figlio, io sono tra coloro, orientamento minoritario, che dicono che probabilmente solo sottoponendo una serie di giudizi incidentali crescenti alla Corte si può tornare a sperare che si apra un dibattito nella Corte su questo, perché siamo figli da parecchi decenni di giurisprudenza costituzionale che ha risentito, a mia modestissima opinione, dell'orientamento prevalente nel nostro ordinamento, che quello sì mi sembra un ordinamento fortemente improntato a un indirizzo culturale, politico, ideologico assolutamente prevalente, che io rispetto, di cui non mi sogno nemmeno lontanamente di negare la preminenza anche nel mondo accademico italiano e della giurisprudenza costituzionale, della dottrina costituzionale. Naturalmente io difendo il diritto di un orientamento diverso che però, ripeto, ha portato grandi paesi dell'Europa continentale, non sto parlando del lo sceno e darwinista mondo anglosassone, a ribadire alcuni principi dell'ordinamento in materia di diritto naturale del contribuente, che in questo caso mi sembrano invece toccati fondamentalmente. Perché, per esempio, professor Di Tanno, quando lei dice tutti i cittadini pagano le stesse tasse e contributi, per quello che riguarda naturalmente il sistema generale delle aliquote sulle persone fisiche è vero, per quello che riguarda il regime contributivo non è vero, come lei sa naturalmente, perché i contributi variano in ragione del tipo di prestazione svolta tra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente. Fidenato, lei che dice di questa impostazione di dibattito? È disposto a farla fino in fondo questa battaglia minoritaria? Certamente io sono disposto fino in fondo, volevo rispondere un po' agli interlocutori, diciamo. Io voglio far osservare al professor Di Tanno che innanzitutto lo stesso ministro Tremonti in un suo libro nel 97 descrisse queste obbligazioni del datore di lavoro come delle vecchie corvée, e io ritengo che siano proprio delle corvée queste, che lo Stato mi chiede, come mi chiedeva il signorotto medievale, delle prestazioni a suo favore, per di più gratuite. Volevo far osservare all'altro interlocutore, Susanna Camusso della CGIL. Ecco, io non sono convinto che il lavoratore, la maggior parte dei lavoratori sappia leggere una busta paga, tant'è che in busta paga non c'è descritta neanche la parte afferente al datore di lavoro dei contributi, quindi il lavoratore dipendente non sa assolutamente quanti contributi a suo favore vengono versati dal datore di lavoro, c'è solo la parte riportata inerente al lavoratore. Quindi mi pare che ci sia molta confusione nella busta paga, ci siano delle lacune, ci siano secondo me delle lacune volute, cioè di non far capire come. Inoltre la posizione di un lavoratore autonomo e un lavoratore dipendente sono diverse. Il lavoratore è autonomo, se viene diciamo pizzicato dall'INPS o dalle entrate può difendersi. Ciò che è, e questo noi l'abbiamo fatto rilevare nel nostro atto al magistrato, mentre un lavoratore dipendente, e se non gli vengono versati i contributi dal datore di lavoro, cioè dal sostituto d'imposta, non può fare nessuna azione, gli è impedito di agire giudizialmente, perché stranamente la legge dice che il rapporto è solo fra l'INPS e il datore di lavoro. Quindi mi pare che ci sia una disparità enorme. Poi io voglio fare un appello agli ascoltatori. Che cos'è se non un obbligo a fare un lavoro, il lavoro del gabelliere? È un obbligo che viene imposto dallo Stato, quindi l'articolo 23 della Costituzione, che impedisce allo Stato delle obbligazioni patrimoniali e personali a qualsiasi cittadino, mi pare che rientri nella fattispecie della nostra azione. Quindi noi siamo intenzionati ad andare avanti fino in fondo e i numerosi ed accorati appelli che abbiamo avuto dai datori di lavoro e gli incitamenti ad andare avanti ci fanno ben sperare che sia maturo il tempo per questa decisione. Eccoci tornati in studio. Il sostituto d'imposta è un po' come la pubblicità del SUV che avete sentito prima. Poi si dice sempre la svolta dei consumi, sempre i SUV ci propongono. Però il sostituto d'imposta, come nella pubblicità si presentava il SUV, è silenzioso, non lascia tracce di sé tranne che nelle vostre tasche. E non sono nemmeno io tra quelli disposto a scommettere che tutti i dipendenti passino ogni mese, quando ricevono la busta paga, il giusto tempo a riflettere su quanto pesa ciò che non c'è, perché si considera ineluttabile il fatto che non ci sia, tant'è che tutti ragionano solo sul netto, i lavoratori dipendenti non ragionano mai sull'lordo. Pensano che l'lordo sia un problema che riguarda l'azienda, il costo aziendale, ma loro ragionano sul netto. E lo dico perché poi voglio tornare con Susanna Camusso esattamente su questo punto. Mentre forse avremmo tutti l'interesse a ragionare sull'lordo, su quello cioè che in teoria, anzi in pratica, costiamo alle imprese rispetto a quanto poco poi viene nelle nostre tasche e anche naturalmente rispetto a quanto, rispetto a quello che ci viene preso, poi lo Stato è in grado davvero di darci o di offrirci. Vediamo cosa ne pensano alcuni ascoltatori. Cominciamo Michele da Milano. Prego Michele. Pronto? Prego, dica. Sì, buongiorno dottor Giannino. Io vorrei intervenire su un argomento che ha latere nel cuore dell'argomento di questa mattina. Io sono quel fautore, siamo incontrati di persona, della flat tax, cioè sono contrario alla progressività. E siccome lei mi disse che fra quelli che negavano questo principio c'erano i sindacati, essendoci la signora Camusso oggi in studio, magari vorrei sentirlo dire da lei che sono contrari a togliere la progressività. Michele, lei mi ha fatto due guai. Prima, perché si dice così sembra quasi che siamo d'accordo, mentre non è vero. Secondo, è vero, c'è anche una questione che riguarda l'aliquota generale il più possibile piatta, ma non stiamo parlando di quello oggi. Quindi benissimo, sentiremo la Camusso anche su questo, ma oggi cerchiamo di raccogliere le opinioni su abolire o meno il sostituto d'imposta come interesse sia dei lavoratori dipendenti che delle imprese, non per abolire lo Stato, ma diciamo per consentirci a tutti di avere uno strumento in più per capire con chiarezza cosa ci prende e cosa ci dà. Andrea da Bologna, prego Andrea. Sì, buongiorno. Ascolti, l'argomento è molto interessante. Mi interessava soprattutto la posizione dell'imprenditore di Pordenone, il quale ha detto una cosa che oltre a non voler fare i gallibelliere per conto dello Stato, ha ragione, dice: io spendo un sacco di soldi da consulente del lavoro, va bene, mi date il sostituto di imposta di tasca a me che sono un dipendente e poi io faccio l'oggetto del mio commercialista, il quale sarà poi lui a capire quanto devo versare di tasse. In parole povere, si andrebbe verso un mondo che sarebbe la gioia dei commercialisti. Io so da colleghi che sono consulenti di quelle misere partite IVA al 4%, i soldi che buttano via da commercialista, perché poi lui quello che sa, quello che bisogna pagare. Piuttosto io dico alla Camusso: datemi in tasca i miei contributi. Separiamo il discorso del sostituto d'imposta e dei contributi. Io non voglio finanziare le baby pensioni di chi è nato in pensione con 15 anni di contributi. Quei quattrini dateli a me. Le tasse, se io non voglio che ci pensi il mio commercialista, perché c'è un sistema lunare di pagare le tasse in Italia. Grazie, grazie Andrea. Quanto al fare la fortuna dei commercialisti, la mia ulteriore domanda, che poi passiamo ai nostri due interlocutori, è che naturalmente proprio questo consentirebbe anche ai lavoratori dipendenti di apprezzare meglio cosa vuol dire l'onere di dover regolare i propri rapporti con il fisco, cosa che si considera invece inalienabilmente qualcosa di cui si deve occupare solo il lavoratore autonomo, il professionista, il commerciante, cioè i famosi additati sempre, evasori, fiscali, nemici del patto sociale, no? Quelli è giusto che si becchino le spese aggiuntive di regolare i propri conti con lo Stato. Che per evitarci i conti della regolare i conti con lo Stato, che per evitarcelo a ciascuno di noi lavoratori dipendenti, sia meglio pensare che quindi li aboliamo facendoceli prendere automaticamente, non sono molto disposto a crederlo, ma la mia, ripeto, è un'opinione minoritaria. Antonio da Roma, prego Antonio. Buongiorno dottor Giannino. Dica. Io volevo dire questo, secondo me lo Stato questa proposta non l'attuerà mai. Perché? Per un motivo molto semplice. Lo Stato non sa fare i controlli o non vuole fare i controlli fiscali. Per cui, se si attuasse questo tipo di proposta, ammettendo, diciamo, che la percentuale di quelli non dico che non paghino completamente le tasse, ma che non pagano tutte le tasse, ammettendo che questa percentuale rimanga la stessa, la platea si allargherebbe molto. Quindi ci sarebbe quasi un crollo nel gettito fiscale, con dei grossi problemi nel bilancio dello Stato. Quindi anche se io sono d'accordo che questa cosa andrebbe fatta, lo Stato non la farà mai, proprio, chiamiamolo, per motivi pragmatici, cioè perché lui ha delle sue impotenze che in questo modo compensa. Non so se sono stato chiaro. No, lei è stato chiaro, lei si pone il problema della ineliminabile priorità del gettito raccolto. Esattamente. Ecco, io dico che a quel punto si porrebbero il problema di abbassare la pressione fiscale media e ci sarebbe un maggior grado di compliance, come si dice, cioè di spontanea adesione e di minore autodifesa o di minore violazione esplicita e implicita degli obblighi in materia anti-evasione e anti-elusione. E il problema è questo. Invece noi ci rassegniamo a considerare ineliminabile una pressione fiscale che oramai è 44% sul PIL, dimenticando che quella è calcolata su un denominatore che ingloba quasi il 17% per via dell'Istat di economia in nero, che le tasse non le paga, quindi in realtà poi tra noi che le paghiamo siamo non al 44%, ma siamo ben oltre il 50% di quello che già diamo. Considerarlo ineliminabile, considerare poi il fatto che in nome del fatto che l'equilibrio del bilancio pubblico, meglio continuare a dare più sangue ogni anno, a me non sembra un buon principio. Però basta, io taccio perché ho parlato troppo. Susanna Camusso, c'è una raffica di osservazioni che le viene da queste telefonate e prego, ci faccia capire in cosa sbagliamo noi. No, adesso, credo che questo sia un dibattito che poco proseguirà molto. Risolvo rapidamente una cosa: la progressività. Noi siamo per la progressività fiscale, ci deve essere un rapporto tra ciò che si paga in tassazione e quanto si guadagna. Che poi oggi la pressione sia troppo alta, questo è un problema di quantità, ma il principio di uguaglianza richiede che ci sia un rapporto tra reddito e quanto si paga in termini di tassazione. Secondo ragionamento rispetto soprattutto alle cose che diceva il dottor Fidenato, io capisco che c'è un tema che si chiama l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione. Esatto. Non sono convinta che lo si risolve attraverso il decidere una distanza tra sé e l'amministrazione pubblica, perché questo è un'altra modalità. Ricorda, come dire, antiche battute, ma non risolvono i problemi. Il secondo problema è i contributi. Le aziende pagano molti contributi, i lavoratori forse non li conoscono. Il tema non è però la conoscenza dei lavoratori, è se si ritiene giusto o no che una serie di assicurazioni, che sono quella previdenziale, quella per la sicurezza e antinfortunistica, così vengano pagate, e se vengono pagate ci deve essere un pagamento diretto agli enti e gli enti preposti. Io peraltro sono perché rimangano, perché sono le assicurazioni sociali per i lavoratori. Il terzo tema è quello invece come si fa a trovare una soluzione diversa e se l'azienda ha o non ha delle responsabilità. Può darsi che ci sia una modalità diversa. Ad oggi non capisco perché rappresenti un problema. Questa è la cosa che io continuo a non capire, perché l'azienda è così convinta che non ha nessuna responsabilità sociale, che non fa parte di una comunità in cui si può fare dell'attività. Io penso che questo sia un punto di partenza sbagliato, che i lavoratori vengano usati in qualche modo strumentalmente sul terreno della loro conoscenza, che in realtà ci sia un problema di distanza che si vuole mettere tra la funzione di impresa e la funzione dello Stato. Se poi invece il tema è la complicazione tributaria del nostro paese, quante tasse si pagano in che modi diversi, la sommatoria tra tasse nazionali, tasse regionali, tasse comunali e così via, su questo io credo che sia vero che bisognerebbe rapidamente andare a una semplificazione della tassazione. Mi pare che la legge sul federalismo fiscale ci porti in tutt'altra direzione e creerà ulteriori problemi, E per questo servirebbe una definizione secca di un'aliquota sul reddito che semplifichi la vita a tutti. Intanto Susanna Camusso, nella conclusione di un ragionamento che parte da punti di vista legittimamente diversi e soprattutto maggioritari nel nostro paese, arriva a un punto molto interessante, secondo me, cioè una aliquota il più possibile semplificata. Per quello che riguarda, stiamo parlando questo, l'imposizione tributaria, mentre difende l'impostazione dei contributi, intanto già questo non mi sembra poco. Eccoci tornati in studio, il professor Di Tanno, come avrà capito, noi stiamo interrogandoci su questo semplicemente per vedere se esiste una strada, nel pieno rispetto ovviamente poi di come è organizzato l'ordinamento, del contenzioso, delle contestazioni che arriveranno, per porci tutti insieme il problema se non sia necessario ripartire un po' da capo nel rapporto fiscale tra lo Stato, il contribuente, a prescindere dal lavoro che svolge il contribuente. O altrimenti se si debba continuare a considerare ineliminabilmente intangibile il modo in cui l'ordinamento ha organizzato questo rapporto. Un tempo prima della riforma fiscale all'inizio degli anni 70 il rapporto personale era il fondamento in realtà del rapporto tra contribuente e Stato, poi certo esigenze organizzative, la crescita degli apparati pubblici eccetera eccetera porta a questo. Però le faccio una domanda, professor Di Tanno: in fondo uno dei pilastri della riforma fiscale dei primi anni 70, Bruno Visentini, mio maestro per carità ad averla disegnata insieme più di tanti altri, era quello di pensare che in questo paese c'era una specie di tendenza ineliminabile, le piccole imprese sarebbero diventate medie, le medie sarebbero diventate grandi, il loro numero sarebbe sempre più cresciuto, si viveva in un mondo ancora fordiano di organizzazione della produzione, fordista, e però peccato che tutto questo, che era il presupposto attraverso il quale poi il sostituto d'imposta diventava il pilastro fondamentale di raccolta del gettito per il reddito delle persone fisiche, poi non è avvenuto, perché il nostro paese resta il paese con la quantità di lavoratori autonomi e piccola impresa enormemente più ampio che in tutti i paesi OCSE. Al contrario, le imprese grandi sono diminuite di numero, purtroppo lo dico perché si è indebolito la posizione delle loro graduatorie di tutto il mondo, e al contrario è diventato sempre di più importante difendere quell'architrave di sistema nervoso di piccole e medie imprese, che sono quelle che poi non solo esportano anche loro ma hanno iniziato a investire di più e a ristrutturarsi. Domanda: per come è andato lo sviluppo dell'economia italiana, non bisogna ripensare a quel pilastro di quella riforma fiscale, appunto il sostituto d'imposta, un po' smentita poi da come è andata l'evoluzione delle imprese italiane? Lei che dice? Io penso di sì, però è bene fare chiarezza su dei presupposti storici. La ritenuta, la fonte, è stata inventata ai tempi del fascismo, si riferiva soltanto ai contributi sociali e non anche all'IRPEF, ma è stata inventata ai tempi del fascismo. L'estensione all'IRPEF è avvenuta con la riforma tributaria che citava lei, con la riforma tributaria degli anni 70. Peraltro devo dire che in quell'epoca, già a quell'epoca, si era consapevoli del fatto che si sarebbe enormemente ampliato il campo delle dichiarazioni dei redditi e che quindi i contribuenti, che all'epoca erano meno di 5 milioni, sarebbero diventati più di 20 milioni. Questo è quello che si diceva all'inizio degli anni 70. Adesso vediamo che i contribuenti sono diventati 40 milioni, quindi c'è indubbiamente un problema di organizzazione dello Stato. Nell'ambito di questa organizzazione dello Stato, a me pare che le norme in materia di sostituzione d'imposta recitino un ruolo, diciamo pure importante, e mi faccia dire positivo, perché queste norme riducono gli oneri a carico dello Stato. Proviamo a immaginare di seguire la tesi del signor Fidenato. Allora, tutti i lavoratori dipendenti diventerebbero degli ordinari contribuenti, dovrebbero presentare la loro dichiarazione dei redditi, e questa dichiarazione dei redditi qualcuno la dovrebbe pur controllare. Allora, questo significa che l'attuale struttura dell'amministrazione finanziaria, che è fatta di circa 75.000 persone, dovrebbe diventare una struttura, non so, di 150-200.000 persone, perché i contribuenti da controllare non sarebbero soltanto i 4 milioni di partite IVA, ma sarebbero i 4 milioni di partite IVA più i 36 milioni di lavoratori dipendenti. Quindi una iniziativa di questo genere è un'iniziativa che creerebbe delle ulteriori serie difficoltà alla costruzione dell'amministrazione finanziaria. Quindi un conto è lavorare alla semplificazione, un conto può essere anche retribuire le imprese per il ruolo di sostituti d'imposta che svolgono. cioè retribuire il fatto che il gabelliere, per fare il gabelliere, è costretto a sostenere dei costi. Quindi un conto è affrontare questo tema, un altro conto è pensare di affrontarlo smontando la figura del sostituto d'imposta. Oh, e quanto invece a livello, diciamo così, di consapevolezza di colui che ricade nel regime della ritenuta alla fonte, nella sua esperienza concreta lei si sentirebbe di dire che sono tutti assolutamente consapevoli o ne sono consapevoli solo in quanto fatalisticamente rassegnati? Su questo sono d'accordo con lei, purtroppo ne sono consapevoli in quanto fatalisticamente rassegnati. Questa è una interessante conclusione che metto insieme alla conclusione della Camusso, da condividere, anche perché io penso che poi in realtà l'esperienza storica ci insegna che per cambiare davvero la forma di articolazione organizzativa e i pilastri delle imposte più importanti su cui si legge l'ordinamento bisogna poi perseguire la convergenza dei filoni culturali e anche di quelli politici, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Io sono poi per il gesto testimoniale come quello di Fidenato, che serve autodichiarandosi a far riflettere e serve anche a esporsi alle conseguenze che inevitabilmente si scatenano, perché ovviamente poi ci sono disposizioni che vengono violate. Abbiamo Franco da Padova proprio su questo, che ci dice Franco? Buongiorno, saluto a lei e gli ascoltatori, vi ringrazio per la trasmissione. Mi date modo di trasferirvi, spero di avere un paio di minuti, un'esperienza interessante e fantastica. Deve abbassare la radio però. Un'esperienza interessante, vorrei dire fantastica, che ho avuto con il mio leader carismatico Fabio Padovan con la LIFE dal 1996-97 al 2005. E io ho sentito il signor Fidanato, mi pare il signore del Friuli, che diceva cosa vuol fare. Fa benissimo, ci provi, però io vi assicuro che lo Stato ha... Innanzitutto, se questo progetto non viene fatto da migliaia di persone, non ha nessun senso. Quei pochi che possono aderire alla, come si dice, all'avversione alle tasse, anche dichiarata, non possono impaurire lo Stato. La nostra esperienza ci ha detto questo, ci hanno macellati dal punto di vista tributario, con processi, con persecuzioni, non vi dico cosa è successo, perché ci vorrebbero delle ore, però lo Stato, purtroppo questo Stato che è strutturato, mi dispiace, non ho niente di personale contro la signora del sindacato, però questo sindacato per esempio è un'anima dello Stato a cui servono miliardi di soldi nostri, delle partite IVA e dei lavoratori dipendenti per mantenersi. Qui il problema è che se non si tolgono dalle balle, scusatemi, migliaia, milioni di parassiti, noi il problema delle tasse non lo possiamo risolvere assolutamente, perché quando vanno a caccia di soldi hanno una cattiveria che è una cosa inimmaginabile. Franco, la fermo perché e difendo anche in questo momento il sindacato, fa il suo mestiere, ognuno fa il suo mestiere, io sono perché naturalmente sì, lo Stato dimagrisca, perché, ma solo perché sia più efficiente, questa è la mia idea, e però devo fare a questo punto la domanda delle 100 pistole a Giorgio Fidenato. Lei è pronto a esporsi agli stessi tipi di conseguenze che Franco da Padova esponeva? Lo Stato, quando il gesto di autoviolazione dichiarata resta isolato e non diventa di massa, è spietato, lei lo sa questo, e quindi che ci dice? Vabbè, io quando abbiamo fatto questa azione sapevamo di esporci a certe cose. Le battaglie che hanno fatto la LIFE le conosco bene, sono diverse dalle battaglie che stiamo facendo noi, perché io adesso qui si sta facendo un dibattito sulle conseguenze che il mio gesto ha. Nella nostra azione non abbiamo mai pensato a quelle conseguenze. Noi pensiamo a noi, la battaglia politica sarà del Movimento Libertario o di qualcun altro, non è nostra. Noi facciamo un discorso per noi stessi. Anche se siamo uno, noi non siamo schiavi dello Stato, e questo lo vogliamo ribadire nella nostra azione legale che abbiamo intrapreso, e non saremo mai schiavi dello Stato, perché è lo Stato che ci fa fare un lavoro, anche come diceva il professor professore pagato, a noi non interessa, a noi non ci interessa essere pagati per un lavoro che non vogliamo fare. Ognuno faccia il suo ruolo e ognuno faccia il suo lavoro. La nostra azione sociale come impresa, in questo caso come un'azienda che offre servizi, è quello di fare i servizi o prodotti sempre migliori al minor costo, perché solo un'azienda efficiente ed efficace potrà dare una giusta e dignitosa paga ai lavoratori. I lavoratori i quali è giusto che pensino a loro stessi, a pagarsi i suoi contributi e le sue tasse, e quindi noi non abbiamo nessuna intenzione di non pagare le tasse, perché i soldi li abbiamo dati ai nostri dipendenti, i quali a loro volta pagheranno giustamente le loro assicurazioni sociali, ma noi gli diamo in mano tutti i soldi a loro e che facciano quello che ritengono più opportuno di fare. Grazie Fidenato, grazie di questa testimonianza. Imprenditori in ascolto, ascoltate e riflettete. Se Fidenato resta solo, siete liberi di non pensarla come lui, di sicuro sarà più difficile per tutti cambiare poi le cose e più probabile invece per tutti diventare schiavi dello Stato. Benissimo, appuntamento a lunedì, grazie a Peter Bescapè in regia e Alessandro Marco Tulli, a lunedì, grazie.